Oggi siamo in compagnia di Massimo Carlotto, uno dei massimi esponenti del noir all'italiana, per parlare del suo ultimo libro, Respiro Corto, pubblicato da Einaudi. È un noir con un ritmo veramente serrato. Io appena ho iniziato a leggerlo, devo dire, ho fatto anche un po' fatica a star dietro, perché insomma ha un inizio folgorante, ci sono diverse situazioni parallele e contemporanee che poi naturalmente confluiranno in una stessa situazione. Questo romanzo è ambientato a Marsiglia. In genere i noir sono sempre molto legati al territorio dello scrittore che appunto li compone. Tu fino adesso, Massimo, ti eri dedicato molto al nord-est, tu sei di Padova. Perché hai scelto Marsiglia per ambientare questo romanzo? Ma da un lato perché continuare a scrivere il nord-est oggi mi avrebbe obbligato un po' a ripetere le stesse cose, nel senso che nel nord-est non sta accadendo nulla di significativo, per cui non c'era granché interessante. Invece a Marsiglia è in atto la guerra dei territori, che è il più grande conflitto proprio militare tra gang degli ultimi 30-40 anni. Uno scontro incredibile che però rappresenta quello che è il conflitto all'interno dell'universo criminale proprio in Europa, il massimo livello, ed è il massimo livello anche della trasformazione criminale, perché a Marsiglia sta cambiando, si sta affermando la nuova criminalità, che appunto è il tema di questo romanzo. E infatti, a proposito di nuova criminalità, in questo romanzo si vede proprio lo scontro fra la criminalità organizzata di vecchio tipo, diciamo quella tradizionale, e invece quella nuova che punta soprattutto alla finanza ed è fatta dai giovani, dai figli dei boss che magari sono andati all'estero a studiare proprio economia e finanza e poi puntano alla gestione di grandi capitali. È questo un po' il tema? Sì, una delle riflessioni che mi ha portato a scrivere questo romanzo è il fatto che per la prima volta nella storia vediamo sapere e criminalità fondersi in un unico progetto. Questo è molto importante perché prima non c'era, non accadeva. Invece questi giovani rampolli di famiglie criminali che escono dall'università e continuano la strada dei padri, delle famiglie, in realtà hanno anche idee molto diverse. Quindi c'è un conflitto tra vecchio e nuovo, determinato anche dalla crisi economica, perché le vecchie organizzazioni mafiose, tipo Cosa Nostra, non sono brave a gestirsi la crisi economica perché è andato in frantumi il loro mondo perfetto degli affari che c'erano. Oggi gli affari sono diversi, loro fanno fatica ad adeguarsi a questo. Invece i giovani sono molto più rapidi e il respiro corto è anche quello della corsa della criminalità in questa società. Chi è più veloce vince. Ma è vero che per documentarti, per scrivere appunto questo romanzo, tu hai incontrato proprio personalmente i figli di alcuni boss che erano andati, come dicevamo prima, a studiare all'estero? Sì, ho fatto alcune interviste. L'intervista per me è sempre un momento importante per raccogliere materiale per i romanzi e l'ho fatto un po' dappertutto, a parte poi Chernobyl, che da cui parte il romanzo, anche sono andato anche a visitare gli altri luoghi, a Langa, Ciudad dell'Est, e soprattutto Marsiglia, e lì ho incontrato una serie di personaggi che sono oggi, posso dire, sono presenti nel romanzo. A proposito di Chernobyl, il romanzo, dicevo prima, inizia subito in maniera piuttosto rapida e inizia con questa scena di caccia nella zona di Chernobyl, e poi fra le altre cose si racconta che il legno di Chernobyl, invece di essere, diciamo, adesso non mi viene il termine, insomma, quando si smaltito, ecco, smaltito in modo corretto, ci sono delle imprese ovviamente mafiose che fanno finta di smaltire in modo corretto, invece poi lo rivendono a quelli che fanno mobili. Insomma, questa è una cosa vera. Assolutamente sì, ma noi abbiamo vissuto, voglio dire, circa un anno fa in Italia lo scandalo del pellet radioattivo, che veniva da Chernobyl. Cioè, nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, ma veniva da Chernobyl. Io ho rifatto la strada al contrario, sono arrivato in Slovenia, sono arrivato a Chernobyl dal punto di vista investigativo, e lì, voglio dire, quello che accade è molto chiaro. I noir sono spesso la descrizione proprio della realtà, sono un modo per comprendere la realtà. È quasi un reportage giornalistico scritto sotto forma di romanzo, quindi anche in questo tuo romanzo sei andato un po' a scovare fra notizie vere. Sì, una volta noi noiristi prendevamo spunto dalla nostra fantasia, ora invece prendiamo spunto da inchieste giornalistiche che svolgiamo prima per raccogliere il materiale che poi usiamo per il romanzo. E ormai l'inchiesta giornalistica fa proprio una parte importante, però serve solo per la trama, poi in realtà non sono inchieste travestite ma veri e propri romanzi. Veniamo allora alla trama di questo romanzo. Sostanzialmente ci sono diversi personaggi, è un romanzo corale, non c'è un solo protagonista, e questi vari personaggi finiscono per incontrarsi appunto a Marsiglia. Quindi non so, c'è un narcotrafficante che arriva dal Paraguay, a Marsiglia c'è una poliziotta dai modi piuttosto violenti, insomma, poi ci sono i mafiosi russi, insomma, hai messo insieme un bel panorama di criminali a livello internazionale. Sì, l'idea mi è venuta stando a Marsiglia e alla sera facevo il sunto di quello che era capitato durante il giorno, no? E alla fine ho visto che si intrecciavano un sacco di storie che provenivano da un sacco di posti del mondo, e allora ho provato a immaginare i personaggi e poi alla fine sono venuti fuori questi personaggi qua. Io all'inizio pensavo un poliziotto maschio, ma cercando facce mi sono messo davanti al comando della polizia in Marsiglia a vedere chi entrava e chi usciva per la caccia di personaggi, ed è uscita questa signora col cappottino verde, la borsetta mezzo attaccata, e però ho visto che i piantoni la salutavano con una deferenza assoluta, sai, rispetto, conoscendo l'ambiente della polizia di Marsiglia, che vuol dire un ambiente rude, voglio dire. Ho detto, questo deve essere un pezzo grosso. Allora mi è venuto in mente di usarla come personaggio. È cattivissima lei nel libro, cioè ordina delle torture, insomma, non è proprio una gentil donna. Che è in linea con quella che è stata la gestione dell'ordine pubblico da molti anni questa parte, ma sì, insomma, un po' romanzata, però voglio dire, più o meno questo. Ci puoi descrivere molto brevemente quali sono un po' i protagonisti che poi creano questa banda criminale a Marsiglia? Beh, sono quattro giovani studenti molto brillanti dell'Università di Leeds. Hanno studiato economia, il preside quando li ha salutati dicendo siamo stati molto contenti di avervi qui, cari ragazzi, e loro però avevano già deciso di dedicarsi al crimine, ma in maniera molto moderna. Loro hanno anche una distanza, secondo me, morale rispetto a quello che combinano, perché un po' si sentono come i piloti che bombardano, no? Hanno quella distanza che permette loro di fare delle cose assolutamente truci, pensando di non essere coinvolti, ma sono ragazzi fino in fondo, che hanno i comportamenti dei ragazzi, non sono, voglio dire, hanno quegli aspetti patibolari che hanno i criminali di strada. Però lo sono fino in fondo, perché per loro è proprio una scelta, ma sono anche profondamente moderni, e per me scrivere questo romanzo con questi personaggi ha proprio significato dire cerchiamo di capire che questo comunque farà parte del nostro futuro. Qual è il tuo atteggiamento proprio di narratore nei confronti di questi personaggi? Tu prendi le distanze sia dal bene che dal male? No, io non posso prendere distanze, perché devo raccontare una storia ed è la storia che comanda proprio nel mio lavoro. A me interessa raccontare la storia, poi sta al lettore prendere le distanze, esce. E anche questo, voglio dire, determina sempre una certa confusione, no? Nel senso che nel mondo, voglio dire, della magia letteraria, poi il lettore sceglie cose che magari sono molto lontane da quello che pensava l'autore, ma così è molto bello. Però voglio dire, la questione della distanza è difficile, bisogna secondo me attenersi alla storia, e la storia poi viene interpretata come uno vuole. Quando scrivi un nuovo romanzo, da che cosa parti? Da un personaggio, da una storia e poi inventi personaggi, da un particolare che hai visto, da cosa? Dalla storia, a me interessano sempre progetti narrativi che abbiano un senso, no? Il fatto che raccontino spezzoni, a me interessa soprattutto il discorso delle trasformazioni criminali e la loro relazione con la società. Mi interessa questo tipo di progetto, per cui parto, devo avere una storia bella, densa, robusta dal punto di vista narrativo, e poi comincio a pensare non solo ai personaggi, ma anche a come raccontarla. L'ultima domanda, una domanda che si fa sempre a Massimo Carlotto, insomma, l'alligatore torna, ogni tanto ritorna, l'alligatore è praticamente il tuo personaggio tipico, il tuo, mi veniva serial killer, ma non è un serial killer, il tuo personaggio seriale. Allora, adesso sto facendo molte presentazioni di Spiro Cotto in giro per l'Italia, e quando finisce la presentazione la prima domanda del pubblico dice, ma sì, bello, bello, però quando torna l'alligatore? Allora l'alligatore torna non subitissimo, però, perché è attualmente impegnato in un'indagine un po' complicata, però secondo me tra un paio d'anni arriva. Tra un paio d'anni, bisognerà dunque aspettare un paio d'anni per ritrovare l'alligatore di Massimo Carlotto, che ora è in libreria con Respiro Corto pubblicato da Einaudi. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.